lezione del 21 aprile. Allora, partiamo dal fondo di questo libro. L'ultimo capitolo, questo è un libro che ha una vita lunghissima. E il mio libro più fortunato, non so perché. Questo libro è uscito la prima volta nel 1985. Quindi quando voi non eravate probabilmente ancora neanche nati. Poi ha avuto una. È uscito che era più piccolino ancora, era circa metà di questo libro, era solo la prima parte di quello che dovete fare. Poi facemmo la seconda edizione nel 2001, non era per la Sheikh ma per un altro editore che adesso non c'è più. Nel 2001 lo ripubblicai con la Sheikh e aggiunsi la seconda parte. Nel 2008 facemmo la seconda edizione Sheikh, cioè 2 anni fa, e aggiunsi un post-scritto che si chiama Dal cyborg al postumano. E allora cominciamo con il postumano, che è l'ultimo, però poi andremo a ritroso. Comunque io non è che vi rifaccio il libro ve lo potete leggere perché siete tutti grandi, quindi non è poi particolarmente difficile. Vediamo se riusciamo a fare qualche passo avanti, insomma, anche rispetto a questo libro. Io c'ho un difetto, come avrete già capito, è che non mi riesce di stare fermo. Cioè non... Adesso quasi non ne farò più edizioni di questo libro qua, perché un po' ne ero sulla scena, basta. Però se lo riscrivessi adesso lo scriverei anche la prima parte in modo completamente diverso. Comunque, obiettivamente, la faccenda del postumano è... diciamo, intanto è una delle cose più discusse o più chiacchierate, male anche magari, ma in questi ultimi anni. E obiettivamente è un tema che sposta l'attenzione sulla questione dell'uomo artificiale a una serie di temi che sono quelli comunque che, come avrete capito, mi interessano di più negli ultimi anni, cioè la questione del linguaggio e il rapporto fra il linguaggio e la pratica e le pratiche sociali. In realtà però la parola postumano comincia ad essere vecchiotta già ora, perché siamo nel 2010 e non dico la prima volta che esce il termine, perché probabilmente non forse era già uscito prima, ma insomma quando comincia, diciamo, la parola postumano comincia a diventare, a essere immessa nel dibattito culturale, come trovate anche scritto lì, nel 1992, quando una particolare figura di curatore che si chiama Jeffrey Deitch, D-E-I-T-C-H, comunque trovate scritto tutto lì nel libro, Jeffrey Deitch fa una mostra che non mi ricordo più, l'ho pure scritto, ma vedete che mi ricordo molto in quale città è stata, a Losanna, sapevo che era in Svizzera, non ricordavo se era Ginevra o se era Losanna. Sì, in realtà questo Deitch è più corto che essere un curatore, è un mercante, insomma, e fa una mostra a Losanna che poi gira l'Europa, è stata anche in Italia al Castello di Rivoli, credo l'anno dopo. E la cosa si chiama Post-Human, credo scritto col trattino. No, senza trattino, Post-Human. Io lo dico senza trattino, perché non è vero. Mi ero il trattino. Sei il gesto, ma non sei il cancellino. Ah, no, c'è. Certo. quindi siamo nel 1992. È una mostra che fa parlare di schietti che giusta e basico, giusta intanto per il titolo, cioè, possibile, siamo dopo l'umano, siamo dopo l'umano, non c'è più uomo, non c'è più l'uomo. È ovvio che post-human è un calco di cosa? Qual è il posto famoso? Quindi il postmoderno è un termine vecchissimo, che addirittura in letteratura, diciamo, la letteratura americana definita postmoderna è una corrente, non è una scuola, che poi sono discussioni disparatissime, comunque, che risale fino agli anni 50-60, però finché è usato in letteratura postmodern non ha una grande, fortuna. Il termine postmodern diventa ha una certa diffusione per la prima volta con l'architettura. C'è un'architettura definita postmoderna che si può datare tra la metà degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Per esempio Venturi, per esempio, e però alcuni fanno risalire questa architettura postmoderna in realtà a delle propaggini dell'architettura moderna o comunque modernista, come per esempio Frank Gehry o comunque con in Italia, diciamo, grosso modo quelli sono gli anni 80, sono gli anni più che per l'architettura, per il design, ma diciamo se pensate a Mendini, Lozza, questa roba qua, a Memphis, invece di fare i mobili squadrati e tutti precisini come avrebbero prescritto le regole della Bauhaus, si cominciano a fare i mobili con volacci, con invece di colori compatti si mettono fiorellini o cose di questo tipo, insomma, le cose per cui Mendini e Lozza sono rimasti famosi nel mondo, sono diventati famosi nel mondo. E la stessa ragione per cui invece di fare un calacarpi come si dovrebbe fare normalmente, si mette la faccina di una o la giugaccio di quella, questa roba è vecchissima. Quello è il design, diciamo, postmoderno. Poi arrivano alcuni filosofi italiani e francesi che appiccicano questa etichetta che era nata in letteratura, poi traslocata in architettura, arriva nella filosofia. Il testo chiave della filosofia postmoderna, come sicuramente sapete, è il libricino di Jean-François Lyotard, La condition postmoderne, del 1981, se non sbaglio, l'anno di Jean-François Lyotard. Personaggio che adesso è morto. Il libro La condizione postmoderna è in realtà è un... I francesi a volte eccellono in questa cosa, cioè alcune delle cose più interessanti che sono state scritte in quegli anni lì non sono libri scritti da un libro sulla condizione postmoderna, no. Il governo del Canada commissiona a questo Lyotard uno studio sulle trasformazioni di quegli anni, su quello che sta succedendo, com'è che stanno cambiando le mentalità, eccetera, eccetera, eccetera. E Lyotard scrive questo libricino piccolino, un libro piccolo perché appunto perché non è un libro, non è un'opera filosofica nel senso tradizionale, non è una, è ovvio che diciamo in qualche maniera distilla le cose che Lyotard aveva pensato negli anni precedenti, insomma. Però diciamo è un libro fatto su commissione, no? Cioè, è un governo, quindi addirittura un organismo politico, insomma, no? Che ti commissiona uno studio per... Perché lo commissionano a Lyotard? Perché Lyotard negli anni precedenti, che l'anno prima, non mi ricordo, adesso non sono sicuro dell'anno, comunque, o poco prima o poco dopo, ma credo prima di aver fatto questa, o comunque, vabbè, insomma, in concomitanza con questo libro, Lyotard organizza una mostra al Centre Pompidou di Parigi, ovviamente di Beaubourg, molto interessante, che si chiama Les Amateurs. Che vuol dire materiale è il plurale di materiale, amateriale è il plurale di materiale, vuol dire gli immateriali. È una mostra di tecnologie applicate all'espressione. Siamo prima dello scoppio, siamo addirittura prima della, siamo agli inizi dell'era dell'informatica, o sono gli ultimi anni 70, o sono i primi anni 80. Certo, sono già anche interessati al computer, ma ancora non è così diffusa, non c'è internet come lo conosciamo adesso. Dal punto di vista delle tecniche dell'immagine digitale non ci sono neanche i CD-ROM ancora, c'è una roba ingombrantissima, una cosa chiamata videodisco, che funziona più o meno con il principio di struttura del laser, ma sono cose. Però in quella. No, e però sono le cose che consentono di fare le prime cose interattive, quindi interattive, no, che non arriva lì, arriva a cosa, schiaccia un bottoncino e cambia l'immagine sullo schermo, però. Era una bella mossa anche dal punto di vista e aveva un catalogo molto interessante. Io vado, ero per caso, no, sì, sono andato per caso a Parigi in questo periodo, ho deciso di vederla, sapendo che io andavo, diversi amici mi hanno chiesto cosa facevo, sono fatto andare con 4-5 copie di questo catalogo, che era un bel catalogo perché era doppio e c'era un catalogo come di tutte le mosse, quindi di formato grande, però c'era una parte scritta con più o meno con degli interventi teorici, insomma, diciamo, poi c'era un altro tipo che la fa famiglia, non ricordo chi era, o meno sfamoso di Lyotard. Stiamo parlando del postmoderno, non del postumano, però vi dico poi da quale prima è uscita questa cosa postumana. Mi fa molto da ridere quando dico che queste sono cose che ho vissuto direttamente, no? Cioè io, e non mi pare neanche che sia passato poi così tanto tempo, ma io posso permetterlo perché. E dirle a lezione, cioè farne degli elementi di storia della cultura, mi viene da ridere, cioè, perché noi in genere nessuno, cioè in genere quando uno fa un corso di questo tipo per parlare delle cose morte, no? Cioè, non parlerebbe mai di persone vive, no? Il povero Lyotard è morto per qualche anno, però insomma voglio dire, ma i ritmi della diciamo dell'innovazione e della trasformazione culturale sono così rapidi ormai che effettivamente ormai nel corso di una vita umana ci stanno già diversi cambi di paradigma, ci stanno già diverse novità. Quindi non so se è un bene o se è un male, perché obiettivamente io le cose che vi dico le filtro il dibattito tra Platone e Aristotele non l'ho vissuto in una prima persona, nonostante quello che si vuole possono pensare, e neanche la nascita della sociologia ai primi del Novecento. Mentre queste robe qua invece fanno parte della mia vita. Quindi aspettatevi un alto grado di inattendibilità o di scarsa obiettività alle cose, dico. Tenete conto che questo è non solo è il punto di vista di Caronia, come ovvio che sia, perché lui si sta riferendo, ma non è neanche un punto di vista che lui ha maturato per delle cose che ha letto, ma per delle cose che ha vissuto in prima persona. Che non è una roba di per sé così ottima, perché vuol dire che uno si è coinvolto in qualche modo e quindi ha preso posizione, ha preso parte. Non lo so neanche se ho ancora il distacco necessario da questa roba qua, anche se sono avvenute ormai 20 anni fa, insomma, o anche più di 20 anni fa. Però d'altra parte qua per altre volte a me non vi aspettiate del grande distacco, e allora adesso basta che non lo aspettate. Cioè, poi ognuno di voi se la mette come vuole. Quindi dicevo, questo catalogo era fatto con due aree prospettate, ma non è che per solito parlare del postmoderno, mi è venuto adesso parlare del postmoderno, però ho pensato che effettivamente è utile. Vediamo di dire com'era fatto questo catalogo per ogni anno. Divaga sempre questo qua, è noiosissimo, cazzo, non riesce mai a finire un discorso. Questo catalogo quindi aveva un volume normale, un altro volume con lo stesso formato, fatto tutto di schede, ma non attaccati, di fogli mobili con un contenitore, e su ogni foglietto c'era recensita o c'era una delle, oggi diremmo, delle installazioni della mostra, insomma, no? Quindi quelle con i videodischi, quelle con i modelli delle molecole, eccetera. Era a metà strada tra scienza, arte e comunicazione. È ovvio che le tecnologie della comunicazione avevano un grande peso in questa cosa. Io la prima volta che vidi, per esempio, un videodisco lì, a questa mostra qua, poi tornato in Italia, quell'anno lì lavorai ad un progetto, poi ho colpito per il Sole su una collana di libri, con libri, però era un po' difficile fare i libri, erano grossi, era anche semplicemente, non era il CD-ROM, che un libro e fai il libro con il CD-ROM, ma il videodisco era insomma complicato, però vabbè. Allora, quali erano le tesi fondamentali del, lasciamo prendere le Jean Materiaux, che era, intanto però il titolo vi dice, qual era il tema di questa mostra? La smaterializzazione, cioè è stata la prima grande occasione a livello internazionale in cui si cominciava a riflettere, a parlare, a sottolineare il fatto che nella vita contemporanea di quegli anni la dimensione immateriale cominciava a essere più importante di quella materiale. In quegli stessi anni i primi economisti cominciavano, ma noi ancora non eravamo, non siamo economisti, dovrebbe essere qualche anno dopo, cominciavano a parlare di postmodernismo, cioè di società di economia che viene dopo quella politica. Quindi è tutta una roba di post, insomma, no? Postmoderno stava in qualche maniera, Lyotard suggeriva che stesse finendo o che stesse per finire, che stesse per essere superata la modernità. Ma uno dice la modernità e io ci metto un po' a chiunque la medicina. Annaspavo un po', avevo fatto delle cose prima, ma insomma, di modo, poi comunque questa ero giovane, quindi avevo molto più forza tosta di oggi e quindi potevo permettermi di fare un po' di fare due volte, insomma. Sono un po' più prudente, ma ancora quella lì che avevo ancora 40 anni, ero vicino, stavo già giovane, e quindi ero più baldanzoso. Postmoderno, dicevo, ma la modernità, perché la modernità? Siamo tutti moderni, pensavo io, e non era tanto sbagliato come. In realtà tutti voi sapete che la modernità non è vero, che siamo sempre stati quanti moderni, insomma. un atteggiamento da un certo da un punto di vista, ma da un altro punto di vista è un periodo storico, cioè è qualche cosa che è nata ad un certo punto, perché non c'era. Quindi la modernità è la costellazione economica, culturale, sociale, eccetera, nata, incubata negli ultimi secoli della società medievale, tra l'undicesimo e il quattordicesimo, e cominciata a nascere tra il sedicesimo e il quattordicesimo secolo in Roma. La cultura moderna è quella che nasce in Italia, prima con l'umanesimo e poi con il Rinascimento, molto più timidamente negli altri paesi d'Europa, i quali tutti in quel periodo guardano all'Italia come un centro. Nasce, viene, si rinnova l'arte, si rinnova la... quella è la verità. E poi dopo un po', insomma, ci si rende conto che sta cambiando l'economia, nasce un nuovo modo di produrre, che a poco soppianta l'agricoltura, non nel senso che non si coltiva più, ma soppianta l'agricoltura come cardine dell'attività economica, al posto dell'agricoltura ci mette l'industria. Questa è la modalità. Bene, Lyotard suggeriva in questo libro, a questo punto chiamo anche il titolo del libro, no, siamo nel 92, 1890. Controllate su Wikipedia. La condizione postmoderna. Non mi ricordo se c'era il trattino, forse c'era. La condizione postmoderna. Che tesi sosteneva Lyotard in questo libro, fondamentalmente? Sosteneva, non so se si può dire, sì, non so se la tesi fondamentale, comunque è la tesi che ebbe più successo, che ebbe più poi che sì. Diceva Lyotard in questo libro, è finita l'epoca dei grands récits, delle grandi narrazioni. Récit, racconto, narrazioni. Le grands récits sono morti, le grandi narrazioni sono morte, la società, la modernità è stata una società nata su grandi discorsi, su grandi narrazioni. In politica la narrazione, per esempio di Hobbes, la spiegazione di Hobbes della nascita dello Stato, o quella di Rousseau, lo Stato come prodotto di un contratto all'interno della società, diceva Hobbes, in cui per superare un mitico e indeterminato stato di natura, in cui tutti gli uomini si sarebbero fatti la guerra l'uno contro l'altro, bellum omnium contra omnes, homo homini lupus, gli uomini nello stato di natura sono crudeli, feroci, non è? E allora a un certo punto, per evitare questo disordine, eccetera, eccetera, si sarebbe risolto, noi mettiamo un patto, deleghiamo un po' della nostra libertà a una persona particolare che sarà il sovrano, quello che sta sopra gli altri, il sovrano, il re, e questo re ci garantirà, certo, abbiamo meno libertà che a stare nello stato della anarchia primitiva, però in cambio di questa poca o tanta libertà che abbiamo perso, avremo la sicurezza. Questo è il discorso di Hobbes. Non è stato incredibile, però è una libertà di natura. Allora, questa è una grande narrazione, no? Una grande narrazione così affascinante, che ha così tanta presa sugli esseri umani, che viene fatta propria anche da chi non è come Hobbes sostenitore della monarchia, ma viene fatta propria anche da chi, come vedete Rousseau per esempio, o quelli che fecero la rivoluzione francese nel 1789, sono invece fautori di uno Stato repubblicano, ma in entrambi i casi, anche nel pensiero politico repubblicano, c'è questa idea del sovrano, la sovranità popolare. Invece di avere una sola persona, abbiamo un concetto astratto che è il popolo, che è sovrano, che vuol dire? È sempre sovrano però, e sta sopra gli altri, e in qualche modo anche Rousseau dice che lo Stato, l'organizzazione della società nasce da questo contratto, da un contratto implicito, non è che uno va da notaio, non quello del Berlusconi, contratto di italiani, fatto sulla scrivania, no. Però in quanto a non essere in grado di mantenere le promesse, non è che è cambiato tanto in questi 300 o 400 anni. Questa è una grande narrazione, aspetto una, possiamo citarne altre. Le grandi narrazioni, cioè si usano le grandi narrazioni anche quando si vuole, anche quando il pensiero moderno vuole mettere in crisi le idee ricevute, le idee tradizionali, quelle che... Quando Horkheimer e Adorno nei primi anni 40, già quando stanno negli USA, vogliono fare una critica della società capitalistica, della cultura, del modo della borghese, e scrivono un libro che si chiama Dialettica dell'Illuminismo, non fanno altro che prendere una delle grandi narrazioni del passato, ma passato, del fatto mitico, cioè la figura di Ulisse, l'Odissea, e in qualche maniera attraverso la grande narrazione di Ulisse, che loro deturnano, a cui cambiano senso, a cui cambiano significato, la rileggono nel clima della modernità, ma la lasciano una grande narrazione, ci raccontano in maniera diversa, tirando fuori dei nuovi significati magari, dei nuovi significati o quelli che si pretendono essere nuovi, significati, in particolare l'episodio di Ulisse e le sirene, che su cui fanno tutta una lunga, un lungo coso che è uno dei nuclei del libro Dialettica dell'Illuminismo. Sono tutte grandi narrazioni. La modernità di Plutarco si basa su grandi racconti, su grandi narrazioni che sono come dei miti, sono dei miti laici, dei miti moderni, ma sono vuol dire pur sempre miti. La modernità si basa su questo. La modernità ha bisogno di uno sguardo globale, di uno sguardo globale, ha bisogno di una distanza, di una giusta distanza che l'uomo mette tra sé e le cose. Non è una cultura dell'immersione, dell'immersività, la cultura moderna. Pensate alla pittura. La pittura moderna coincide con la nascita della prospettiva, no? La prospettiva è più di una tecnica, la prospettiva è qualcosa che probabilmente già i greci antichi conoscevano, perlomeno sicuramente gli alessandrini, ma non essendoci rimasto praticamente nulla o ben poco della pittura greca, se non quella vascolare, in cui per forza di cose le ancore non molto sul piatto, oppure gli affreschi cretesi del massimo, ce ne sono molto prima. La pittura classica greca del quarto secolo non c'è rimasto nulla, però probabilmente e sicuramente nel terzo secolo avanti Cristo c'era già la prospettiva, poi però si perde nel Medioevo, se non ricordate, Giotto non ha una prospettiva o ha una semi prospettiva, insomma, diversa. Allora, la prospettiva non è solo una tecnica, porta con sé una visione, una visione delle cose, perché postula un punto dello spazio privilegiato rispetto ad altri, dal quale guardare il quadro, che è esattamente, no, la posizione privilegiata dell'osservatore, in genere in asse, cioè disposto in una direzione perpendicolare rispetto al piano del quadro. Il punto da cui il quadro si osserva meglio è esattamente il simmetrico del punto di fuga virtuale, cioè del punto dietro al quadro, in cui tutte le varie linee, che nella realtà sarebbero parallele, invece diventano convergenti nella rappresentazione pittorica, e l'esatto simmetrico del punto di fuga è il punto di vista. La modernità è una cultura del punto di vista, privilegia il punto di vista. Ci vuole una distanza però, Poi ci sono variazioni su questo punto di vista innumerevoli, pensate alla Comunità di Velázquez, e ci sono anche dei modi di giostrare su questa cosa e dimostrarne le possibilità, diciamo pure parodistiche. L'anamorfosi, per esempio, l'anamorfosi piana, consiste nel fare una prospettiva in cui il punto di fuga non sia collocato su di una retta ortogonale alla posizione del quadro, ma su una retta molto obliqua rispetto alla posizione del quadro e molto arretrata, cosicché per vedere bene, cosicché se voi guardate una figura anamorfizzata e state dritti, non vedete il cazzo. Vedete nel quadro di Holbein dei due ambasciatori, vedete una strana macchia scura e allungata. Se vi mettete in un punto molto particolare, quasi cadente al quadro, abbastanza lontano, guardate lì e vedete che c'è il teschio, ma il teschio non lo vedete se voi fate così. Quella conica, l'anamorfosi è una sorta di parodia, no? della cosa bizzarra, però è basata sullo stesso presupposto, è sempre prospettiva. E anamorfosi o prospettiva centrale o quello che sia presuppone comunque che voi abbiate rispetto, diciamo, se il quadro è una metafora del mondo, così lo spettatore del quadro è una metafora del soggetto conoscente nel mondo, dell'uomo nel mondo. L'uomo deve avere, ci dice la cultura moderna, una distanza rispetto al mondo, deve essere distanza. Se non c'è questa distanza non si capisce più nulla. È vero, come dice Lermanovic giustamente nel suo libro sui nuovi media, che c'è un'altra tradizione, che anche in quel periodo, anche nella modernità, c'è un'altra tradizione pittorica, che non è quella del quadro e che quindi ha dei punti di vista diversi, che è quella dell'affresco, cioè che è quella della... L'affresco rappresenta in qualche modo, si può pensare che rappresenti in qualche modo, come dice Telemanovic, un precursore delle realtà rituali, diciamo, perché ha una logica più di tipo immersivo. Voi entrate nella chiesa, o nel suo palazzo, o nella sala, se andate a palazzo di te a Mantova, capite meglio questa cosa, perché avete pareti, soffitto, forse anche pavimento, non mi so, tutto affrescato nella sala dei giganti, per esempio, palazzo di te a Mantova, avete questa sensazione. E vi sentite, virgolette, immersi dentro, non è un quadro, non è una finestra ritagliata sul mondo, è tutto l'ambiente, le pareti della chiesa, che vi costruiscono. In realtà tutti sono fatti con la prospettiva, eccetera, e se voi poi andate a vedere, è difficile se avete un ambiente totalmente affrescato vederlo nello stesso modo, e da ogni punto in cui vi mettete privilegiate qualche cosa. Però quello che conta lì non è, come nel quadro, la bella disposizione dello spettatore di fronte, ma è lo sguardo d'assieme, quindi il fatto di sentirvi voi, di sentirci noi immersi, è obiettivamente è qualcosa di analogo. Però è un'immersività, come dire, il cui trucco può essere anche abilissimamente dissimulato, ma fa parte delle regole del gioco. Se pensate al trump play, che è qualcosa di analogo all'anamorfosi, il trump play è una tecnica fondamentale, soprattutto per affrescare certe zone particolari, per esempio nelle chiese, quando affrescate, quando fate quando dipingete la cupoletta, la cupola grande in fondo, no, ma per esempio la cupoletta o il, come cazzo si chiama, il cilindretto di tv, no, il tv si è un'altra cosa, vabbè, non sanno, che è il cilindro su cui poi si innesta, questo cilindretto su cui si innesta la cupola dopo. Se volete dipingere in modo che quello che sta sotto veda e capisca qualche cosa, dovete usare delle tecniche di trompe l'œil. Le tecniche di trompe l'œil si usano anche quando si erano dipinti, sono molto usate in Liguria, per esempio, se voi andate in Liguria, un paese che, come è a tutti noto, è un paese di persone molto parsimoniose, per non dire di peggio, e quindi invece di fare tutte le finestre su questa facciata che gli costava troppo, le prende molte, se le facciate con le pinte, quindi sono state usate in casa con tre finestre vere e 10 finestre pinte, però se sono andate bene di lontano possono entrare le finestre vere, è un trompe l'œil, tra i tanti. Così, perché la figura è un po' secondo me, io non sono di quella, non ho purtroppo per me ereditato questa nobile virtù dei liguri di essere, siamo risparmiatori, però la maggior parte dei miei cittadini, dei miei conterranei obiettivamente lo sono. E va bene. Allora, la fine delle grandi narrazioni, quindi, vuol dire anche la fine del punto di vista, vuol dire anche la fine della distanza fra sé e le cose, vuol dire l'inizio di una esperienza in cui le narrazioni non sono più macro, grandi, ma micro, in cui non c'è più un ordine nel mondo dato dalla centralità o dalla particolarità di certe particolari condizioni, non soltanto dal punto di vista fisico, ma evidentemente anche dal punto di vista ideale, culturale, eccetera, in cui prevale lo stare dentro, l'immersione nelle cose, l'essere parte di una corrente. Questa ci spiega, diciamo, Lyotard, è la condizione postmoderna. Come nell'architettura, la postmodernità in architettura è la fine della regolarità delle forme semplici, squadrate, dell'architettura, non di quella barocca, certo, allora uno dice, ma nel moderno c'è anche il barocco, sì, però diciamo, il barocco è, come dire, nell'architettura, in parte anche nelle altre arti, è una specie di esplosione iniziale della modernità e dopo un po' si esaurisce, dopo abbiamo il neoclassico, lo stile Pompier, lo stile. Poi certamente arrivano le avanguardie e cambiano molte cose. Però nell'architettura voglio dire che anche le avanguardie non hanno fatto una rivoluzione, cioè sono state molto più mondrianesche che non diciamo cubiste o dadaiste, no? Cioè hanno seguito quel particolare filone che nelle avanguardie delle arti pittoriche è una fra le diciamo, tante vie, quella di Mondrian, diciamo l'astrattismo più semplice, rigoroso e puro possibile. Bene, quella architettura, cioè, diciamo il movimento Bauhaus, che è probabilmente l'epitome dell'architettura moderna, noi diciamo la linea che va dalla Bauhaus a Le Corbusier, è la linea di una architettura funzionale, la forma segue la funzione, eccetera, eccetera, eccetera. Nell'architettura, l'architettura postmoderna sarà il rifiuto di questa linea essenziale, essenzialista, rigorosa, eccetera, e sarà invece il trionfo, appunto, della faccina della signorina sul Calaturaccioli o delle superfici punteggiate, dipinte e scrivacchiate dei mobili di Roxas, o le forme sinuose dei mobili di Mendini, o tutte queste cose qua, o la casa, il palazzo di Praga costruito da Franz Gehry, che si chiama Ginger Fest, perché effettivamente sembrano due case che richiamano vagamente Fred Astaire e Ginger Rogers, cioè due che ballano, insomma, quindi vedete, ed è veramente un'impressione, però sono, se non avete visto, andate a vederla, perché vale la pena la scoperta da posto. Se questo lo zampete, se no se ne fate Tinder, prima o dopo, poco dopo del film. Questa è la condizione postmoderna. Dibattiti a non finire, naturalmente, ma non è vero, la verità è finita. I critici maggiori di questo modo di pensare, di questo discorso sul postmoderno, sul postmoderno, sulla postmodernità, obiettano che Lyotard non ha fatto altro in questo libro, in questo libricino, che descrivere non qualcosa che supera la modernità, ma una delle tante varianti della modernità. Perché obiettivamente la modernità è una come dire, cultura particolare, è esattamente in modo molto simile a quello che è il capitalismo in economia, cioè una forma, un modo di produzione che costitutivamente richiede il rivoluzionamento continuo, il cambiamento continuo della, diciamo, dei suoi strumenti e delle sue modalità. Così la cultura moderna sarebbe, forse è, in effetti è una cultura che prevede entro di sé, che già prevede dentro di sé il fatto di essere continuamente superata. E quindi il fatto che prevede, il fatto che abbia dentro di sé, nelle sue regole costitutive, l'idea di un cambiamento continuo, che quindi, diciamo, l'idea addirittura non solo di cambiamento, ma di allevare e di privilegiare al proprio interno le forze che portano a un suo rimescolamento e al suo superamento, in modo più o meno furbo, uno può dire ma è una furbizia, è una furbizia, però effettivamente è difficile superare una strategia. Come diavolo fai a superare qualcosa che già dentro te dice io già mi supero da solo? Ogni volta che tu ti superi stai sempre dentro la modernità, perché fa parte del moderno rivoluzionare, fa parte del moderno innovare, fa parte del moderno distruggere, diciamo, segare il ramo su cui stai appeso, con gran sali, naturalmente, con una certa arco. Le metafore sono una cosa e le cose fanno un'altra, quindi la strategia non, diciamo, segarlo troppo, però insomma qualche tramezzo un po' di là si può segare, sempre, anzi è consigliabile, diciamo, segare. Allora i critici del cosiddetto postmoderno dicono non c'è questo postmoderno. Siamo in continuità con il moderno, era già stato il moderno che prevedeva dentro di sé questo continuo rivoluzionamento. Critiche che sono, volendo, tanto più fondate quando dall'impostazione iniziale di Jean Lyotard passiamo al suo apostolo, all'apostolo più importante del postmoderno in Italia, che è Gianni Vattimo, che è un filosofo, insomma, un personaggio sempre attesa per nessuno, insomma, un po' meno originale, un po' meno solido di Lyotard, e che quindi che però scrive un libro lui insieme con Peraldo Vatti, peraltro, poco dopo questo libro di Lyotard, che si chiama Il pensiero debole, e in cui quindi si spiega che si declina il discorso lyotardiano in termini più, diciamo, si accentua di più quello che in quel libro, nelle cose successive che scrive Vattimo, viene descritto come la fine delle ideologie, non c'è più ideologia, non c'è più le grandi narrazioni, diciamo, le grandi narrazioni di siamo in realtà nel postmoderno italiano diventano le ideologie. Il problema è che l'Italia stava vivendo in quegli anni la fine di un grande ciclo di trasformazioni sociali, di lotte anche sociali, che erano quelle degli anni 60, le quali più o meno nel bene o nel male erano state effettivamente, erano, come dire, si erano svolte all'insegna di uno scontro anche, diciamo, ideologico, tra, c'erano dietro le ideologie nelle lotte, sulle tedesche operarie, eccetera, degli anni 60 e insomma 70, c'era in qualche modo marxismo contro liberismo, contro liberalismo, laicismo contro il cristianesimo sociale, con, certamente con alcuni momenti anche di conciliazione, ma la più parte delle volte con contrapposizioni anche dure rigide. Il 1980 in Italia è l'anno, dal punto di vista sociale, è l'anno, diciamo, di svolta, le cose sono già cominciate a declinare qualche anno prima, cioè già in fondo nel 77 la cosa si era vista, ma nel 77 lo scoppio della seconda fase del 68, cioè l'emergere di un soggetto sociale parzialmente nuovo rispetto agli operai inquadrati, agli operai delle grandi fabbriche, che erano stati i protagonisti insieme con i studenti, naturalmente, ma socialmente non erano stati loro i protagonisti delle lotte con i precedenti. Nel 1977 emerge, comincia ad emergere un proletariato, cioè una forza lavoro più frammentata, più o meno, che faceva meno riferimento, obiettivamente meno ideologica, certo, meno legata alle ideologie tradizionali e anche ai modi di organizzazione tradizionali, quindi non sindacalizzate o addirittura contrarie, proprio anche fuori dei, diciamo, sindacati, e pochissimo sensibili, per non dire contrarie, ai discorsi che i sindacati facevano, quindi per esempio poco influenzate dal mito del lavoro, dall'ideologia lavorista, per cui lavorare era comunque una cosa positiva, poi si dovevano rivendicare condizioni migliori, ma la cosa importante era il lavoro, come dire, il lavoro era un valore tanto per i capitalisti che vivevano sfruttando questo lavoro, quanto per gli operai che di questo lavoro vivevano con il loro, diciamo, salario. Ma c'era un'affezione nell'operaio tradizionale alla dimensione del lavoro, affezione che cominciava già a venire meno, cominciava già a diminuire con l'emergere già negli anni 60 dell'operaio massa rispetto all'operaio professionalizzato di prima, ma che negli anni intorno al 77 con le leve più giovani, con le leve operarie, con i gruppi, con gli strati operai più giovani che lavoravano nelle fabbriche in quegli anni lì, arriva a maturazione, cioè questi nuovi strati operai nella seconda metà degli anni, insomma, 70, proprio non ne vogliono sapere di aderire, cioè di contrattare in maniera anche dura, eccetera, ma il proprio tempo con un salario è un tipo di scambio che non gli va più bene, o perlomeno lo fanno perché devono sopravvivere, certamente lavoriamo, siamo stupidi, non abbiamo cosa da fare, lavoriamo, però ci rompi i coglioni, vogliamo molta più libertà, non vogliono più libertà in fabbrica come le generazioni precedenti di operai per fare meglio il proprio lavoro, vogliono più libertà proprio per non fare il lavoro, per non lavorare, perché giudicano il lavoro in quanto tale una condizione alienante, e quindi diciamo proclamano una estraneità, un rifiuto del lavoro. Ora, tutte queste cose ci sono di sfondo sul, nel, come dire, discorso sul, sul postmoderno. Però quello che il quello che né, diciamo, Lyotard forse né Vattimo ci spiegano, ci hanno spiegato bene, è che queste, è che insieme con questi movimenti, insieme con queste intenzioni, insieme con queste pratiche da parte degli, degli strati oppressi, insomma, quindi del proletariato, insomma, degli operai, dei lavoratori o degli studenti che poi erano, diciamo, lavoratori in prospettiva, che esprimevano un punto di vista tendenzialmente radicalmente alternativo anche come sistema valoriale, anche come ancore, come punti fermi per la propria vita rispetto alla ideologia, chiamiamola lavorista, che in qualche maniera accomunava i capitalisti con le forze tradizionali del movimento operaio, quindi con i partiti e con i sindacati. Accanto a questa cosa c'era già embrionalmente in quegli anni un movimento di contro, di contrattacco, insomma, da parte delle classi dominanti, quindi da parte del ceto economico e politico, che cominciava a capire che di fronte a un movimento del genere non era, era totalmente inefficace la strategia seguita sino ad allora, che consisteva nel tentare di contrattare più quello che si poteva con il sindacato, ma certe volte anche con le forze rivoluzionarie, uno si contrattava con chi era. Da un lato, quello che si poteva si contrattava, quindi qualche cosa si dava. Quando si era arrivati al limite, non si poteva dare più, si picchiava. Quindi, diciamo, l'accoppiata, diciamo, contrattazione e repressione, insomma, contrattazione e violenza, c'era una violenza da parte del potere, da parte dei poteri in quegli anni, che fu la violenza che cominciò con Piazza Fontana, con diciamo, l'attentato del 12 dicembre 1969 in Piazza Fontana, e che era continuato in tutti quegli anni, piccole stragi, piccole grandi stragi, al ritmo di una o due l'anno, insomma, tanto per far vedere che c'è. E poi erano gli scontri di piazza, eccetera. No, questa strategia pensano i padroni, pensano sui termini più vecchi, insomma, non so, gli operai, quelli che hanno i soldi per fare, non vedo come si possono chiamare in altro modo. Diciamo, quindi, diciamo, il ceto economico e politico di Italia comincia a pensare che questa che questa via contrattazione e repressione non sia le porti a poco, i margini di mediazione si assottigliano, e obiettivamente il sistema produttivo italiano è in uno stato pericoloso per chi ha in mano le fabbriche, insomma, le fabbriche funzionano veramente poco e gli operai fanno il cazzo che li paga loro dentro, anche senza una grande maturità politica, ma comunque sia, cioè se c'è lo sciopero, e da un certo punto di vista l'esistenza di uno, diciamo, stato sociale, quindi di indennità, di disoccupazione, sistema sanitario, eccetera, eccetera, favorisce questa cosa, perché il bisogno di reddito, sia pure non in modo eccetera, insomma, è in qualche maniera garantito anche se fai sciopero, anche se hai sempre qualche altro modo di, insomma, cavarla. Quindi pensano, questo non va bene, che cosa possiamo fare? Pensano, l'idea non è una roba pensata a tavolino, è più spesso una, diciamo, reazione immediata. Le parti più avanzate di questo sistema cominciano a reagire in un modo di cui, volendo, voi potete pensare che, diciamo, l'ideologia, la nuova ideologia o la non ideologia del postmoderno, potete pensare, se siete un po' maligni, che sia una copertura culturale di questa nuova strategia del capitalismo, del capitale o dei vari capitali. La strada nuova qual è? È geniale, l'uovo di Colombo. Cioè, è quella di dire, bene, prendiamo atto che non volete più tutto quello che avete visto sinora, che non siete più laboristi, che non vi interessa più la stabilità, vivere e crescere e morire nello stesso posto di lavoro. Volete essere flessibili, rivendicate la flessibilità, siete voi che ci chiedete di entrare e uscire dalla fabbrica quando volete. Siete voi che non ci chiedete un sistema di produzione rigido, è così ragazzi, è così, le cose andarono esattamente così. Siete voi che ci chiedete che non volete più questa. Dice bene, ve lo daremo. Forse non avete torto, forse non avete torto. Adesso ci inventiamo un modo di produrre diverso per cui possiamo fare a meno di avere 2000 operai che fanno lo stesso lavoro tutti rinchiusi in una stessa vaga. Ci inventiamo un sistema produttivo in cui magari è possibile che la gran parte di quelli che fanno il lavoro manuale cominciamo a cercarceli all'estero, per esempio in Polonia, per esempio nell'est europeo, per esempio in Cina, perché anche in Cina andavano, per esempio in India, per esempio in posti dove guarda caso poi la forza lavoro costa molto meno che qua, e quindi un po' più di costi di trasporto, ma facciamo più o meno i conti. Quanto a voi, ragazzi, va benissimo, non vi diamo più, non vi offriamo più il posto, non avete più il posto fisso, non ve lo diamo più. Lavorate quest'anno, vi diamo dei posti travallanti, cominciate così, facciamo un contrattino per un anno, poi dopo si vede, se avete voglia continuate, se non avete voglia non, come dire, continuate. È come dire, paradossale, ma andarono così le cose. Gran parte delle rivendicazioni delle forze delle forze più avanzate, delle forze più casiniste, di quelli più contrari di quegli anni, vennero prese e ovviamente cambiate, cioè gli si cambiò segno, gli si cambiò significato. Potreste anche metterla che venne usata come pretesto per. Contemporaneamente, proprio quelli erano gli anni in cui nasceva l'informatica distribuita e quindi veniva fuori, nasceva una tecnologia per cui era possibile assicurare un legame tra i vari settori del processo produttivo che non fosse più fisico, materiale, spaziale. Si potevano collegare posti lontani tra loro, continuando a mantenere una unicità del ciclo, come dire, produttivo. È vero, no, che da un certo punto di vista, questo sicuramente è vero dal punto di vista dell'economia, se c'era una grande narrazione, se c'era un racconto nella fabbrica capitalista, era esattamente quello sulla quale generazioni di capitalisti e di operai si erano formati ed erano nati, ed era il grande discorso del lavoro. Il lavoro come religione, il lavoro come religione laica, come religione, ma come sistema di valori che univa tutta quella comunità e che raccontava una storia dell'uomo come modesto, accanito e però diciamo perseverante costruttore del proprio futuro. Era il mito del progetto. Progettare, pensare prima ciò che devo fare dopo. Ogni tanto mi canta la racconto perché insomma così quando ero giovane, io appunto negli anni 70, e facevo spesso in treno la strada Torino-Milano, o perché abitavo a Torino e venivo a fare delle cose qua, o perché stavo qua, insomma facevo spesso questa, molte volte al mese, in media una volta alla settimana. E col treno, passando tra già dopo Novara o poco dopo Vercelli, ma ben prima di Contoristi, a mezzo strada, grosso modo, sono di Roma, si cominciavano a vedere i grandi spiazzi dei depositi della Fiat, che si vedevano perché stavano attaccati alla ferrovia. E si vedevano centinaia e migliaia di automobili, di camion, era la produzione della Fiat, erano i polmoni della Fiat. Se uno stava attento, poteva capire grosso modo, se si ricordava da una volta all'altra i modelli di macchine, quanto tempo mediamente ci stavano, parcheggiavano lì queste cose. Quando non c'erano più, vuol dire che erano vendute, che erano state portate dal concessionario, eccetera. Adesso non posso dire, ma erano tempi lunghi, erano alcuni mesi sicuro. Stavano per mesi lì le cose. Com'è che si lavorava in quel periodo? Si progettava, anche dal punto di vista dell'economia, si tentava di prevedere quali sarebbero state le esigenze del mercato di lì a 3 mesi, 6 mesi, 8 mesi. E si costruiva al tempo X le merci, in particolare le macchine, per esempio le automobili, che sarebbero state vendute al tempo X più 1, X più 2, X più 3, X più 6, X più 8 mesi, X più 12 mesi. No? Dipendeva. Poteva andare male perché l'azienda poteva aver previsto male, forse allora avrebbe era il rischio, questo faceva parte del rischio di impresa. Però prima, quindi quando c'era venduto poi erano cacci acidi, perché ovviamente tu già le previste, i soldi erano cacciati, c'era la terra prima, gli operai più o meno dovevi pagarli, insomma. Se voi andate lì oggi, se voi fate oggi nel rotto di rendremo, non le vedete più tutte queste ampie di sé, perché non si produce più così, perché le tecnologie informatiche hanno consentito di fare quella che si chiama la produzione just in time, o l'economia dell'attenzione, perché non occorrono più 6 mesi, non occorre più sforzarsi di capire da una serie di tendenze, di indici economici, eccetera, eccetera, sociali, di sapere cosa comprerà la gente fra 6 mesi. Perché ormai, le macchine ancora sapete che sempre sono cose, ma è molto più accorciato il ciclo e tendenzialmente il consumatore chiede una cosa oggi e ce l'ha domani, o ce l'ha ieri, o quella cosa sta già lì, perché sappiamo già che. E tutta questa nuova organizzazione della produzione, economia dell'attenzione, produzione just in time, produzione del tempo reale, eccetera, eccetera, è ovviamente dovuta alla esistenza delle tecnologie informatiche, ovviamente la loro accoppiata con le linee telefoniche o con lettere che si chiamano telematica, cioè tutto questo insieme di cose che 30 anni fa non c'erano, 40 anni, 40 anni fa non c'erano, forse allora non aveva torto Lyotard a dire che stavano finendo le grandi narrazioni. Perlomeno quel discorso lì finiva. Forse Massimo aveva fatto un passo un po' troppo più lungo della gamba quando aveva detto, vabbè sì, infatti non ci sono più le ideologie. Perché forse le ideologie, forse perché al posto di queste grandi narrazioni ci sono una serie di micro narrazioni, o forse c'è una nuova grande narrazione, non lo so, ognuno di voi se la vede, non voglio precostituire la risposta, insomma, ma obiettivamente però, io vi ho dato qualche idea adesso per fare il quadro completo, per parlare della finanziarizzazione, di un sacco di cose, insomma, di cui non penso che sarebbe utile parlare ora, ma spero di avervi dato il quadro, diciamo, il quadro di un fenomeno che comunque lo vogliamo interpretare, è, diciamo, un fenomeno che possiamo descrivere in vari modi, ma su cui ci troveremmo, credo, tutti quanti d'accordo, dicendo che il cambiamento dei modi di produrre, degli stili di vita, delle condizioni di base della socialità nel, diciamo, nell'Occidente e complessivamente nel mondo sono radicalmente cambiati tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80. E non è un caso, ripeto, che questo discorso del postmoderno sia nato grosso modo in quel periodo, quindi vuol dire che in qualche maniera la questione del postmoderno era il risultato di queste trasformazioni. Il termine postmoderno, chiudo qua questa lunga parentesi introduttiva sul cosiddetto postmoderno, viene però dal punto di vista della pubblicistica culturale, secondo me deve, diciamo, la scura a una serie di perlomeno di termini, se non di modi di pensare o di categorie concettuali, che forse sarebbe, forse fare un po' troppo onore a chiamare categorie concettuali, tutte che cominciano col posto, insomma, col termine posto. Questo termine post irrita moltissima gente, a volte mi dà un po' fastidio pure a me, perché obiettivamente dice, beh, c'è post. C'è una ragione, naturalmente, non è che l'abbiamo fatto per irritare Gillo Dorfler, il poverino che ha appena compiuto 100 anni, eccetera, è che... ci si rende conto che qualche cosa finisce, che qualcosa si sta trasformando. Siccome ci siamo dentro noi e la stiamo vivendo, noi insomma tutti, poi diciamo che l'età qua consente di avere delle prospettive di vista un poco diversi, ma di fatto le condizioni di base dell'esperienza, siamo tutti dentro a questo tragitto, a questa transizione. Capiamo che è una transizione. Sappiamo da dove veniamo, perché dal 1850, dal 1930 e poi qualcuno si è dato la briga di raccontarci come andavano le cose in quel periodo, e poi successivamente alcune categorie sono state messe a posto, dico Marx, dico Max Weber, dico insomma, tutti quelli che ci hanno consentito di capire cos'era il capitalismo, insomma. Capiamo che questo non c'è più, ma non siamo ancora ben sicuri di quello che cosa ci sarà poi, quali sono le cose. E quindi non abbiamo un nome ancora per quello che viene dopo, sappiamo soltanto che viene dopo. Sono come i versi di Montale, fammi fare questa battuta su Montale, poi dopo vedo perché. Sono i versi di Montale, con esito solo oggi possiamo dire ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Questo solo oggi possiamo dire, parafrasiamo Montale, da dove veniamo, ma non possiamo dirvi dove stiamo andando perché non lo sappiamo bene. Ecco perché si usa questo prefisso post, perché sappiamo dopo da dove veniamo, ma non siamo sicuri che cosa verrà dopo. Cerchiamo di capirlo adesso, cercando di analizzare le trasformazioni mentre le stiamo vivendo. E come si diceva quando ero piccolo io, c'era il grande dibattito sulle riforme di cultura, e diceva Riccardo Lombardi, che era un leader socialista a cui io facevo riferimento in quel periodo, per fare le riforme di struttura bisogna essere capaci di smontare e cambiare il motore della macchina mentre la macchina è in cose, pensavo che c'è già un bambino. Facciamo una pausa, ragazzi? Facciamo una pausa.